fallisco, mi suicido. Io fallisco Radio Belva, come si chiamava, mi suicido. Ma è una battuta. Magari vi fosse suicidati veramente voi due stronzi, cornuti, Pinocchi, non ti inculo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica. Son pizzichi d'amore, bella non fanno mali. Succedette gli ho fossato con Rosina poveretta, che faceva gli ho bucate con la cenere scupetta. Se l'avette gli ho corpette, le garziette a cannolè, sotto braghi fazzolette e gli ureste vie da sé. Me pizzica, me ammetterete che figli di puttana come Suarez ce ne sono pochi, perché dare un mozzico a un avversario nel corso di una rissa, in un momento di tracotanza, di quello ancora insomma, ma avvicinarsi senza senso, senza alcuna utilità a un bravo giocatore inconsapevole, vittima come Chiellini, da dietro sperando di farla franca e di non essere visto, e addentargli la spalla sinistra, beh, questa è una cosa, insomma, una performance surreale. Sebastiano gli uova cara mentre stava a pascola, buono buono cara cara si avvicina e poi ci fa. Sgarbi e Parietti, e dico Sgarbi e Parietti contro Balotelli, che io invece difendo a spada tratta, non per le frasi che ha detto ieri, non per le frasi che ha detto ieri sui negri, sui fratelli negri, sul fatto di essere scaricato dagli italiani, eccetera, quella è una puttanata inenarrabile. Ma lo appoggio perché in fin dei conti poi non è giusto prendersela con lui, non è colpa sua. Senti Parietti, senti Alba Parietti. Sì. Allora, il razzismo è una cosa seria e pregherei Balotelli di applicarlo alle cose serie. Quindi i fratelli neri dovrebbero essere i primi a ribellarsi a questo genere di comportamento, perché Balotelli ha fatto schifo in campo. No, in questo caso però ha ragione, i fratelli neri si dovrebbero ribellare a questa stronzata di Balotelli. Vittorione, Vittorio Sgarbi su Balotelli, dai, forza. Se perfino io, che sono, come dire, perfetto, patisco il caldo, non mi pare di giustificare Balotelli, che forse lo ha patito, ecco. Quindi da questo punto di vista non lo so, se è una questione etica, in condizioni ideali, non sia più giudicabile negativamente che non quello. Posso dire, vado da me e da Alba, no, secondo me è un eccesso di, non possono giocare di notte, di retorica, sì, ma fa anche caldo ugualmente. Well, you're right, son, you see God put me here just the same as he put you, so sempre Vittorione, sempre Vittorione, scatenato contro Galan. Senti. Sì, sì, no, la Commissione Cultura, che io ho presieduto per 2 anni, è un luogo dove si sono fatte cose importanti. Non è possibile che sia illordata da un culo infetto come quello di Galan. Cioè, è una cosa intollerabile. I'm nature's little mosquito. Sono stato processato per vilipendio a quel cazzo di Scalfaro. Da quel cazzo di Scalfaro. Sono stato processato mille volte. Ma sì, e non no, mi hanno dato l'insindacabilità, non l'immunità. Fammi come l'hanno data? Mi hanno processato continuamente. Ho capito. Scalfaro non ha le palle. Mi hanno processato per vilipendio a quel cazzo di Scalfaro. Ma no, dai. Vittorio, non ti fruttare male. Fammi finire. Stai zitti un attimo. Vittorio, ti voglio difendere. Naturalmente a te stesso, fammi finire. And God loved me when he made me. Vabbè, Parenzo, questa era un po' di sgarbiana, eh? Era un ma po' di sgarbiana. Ma no, dai! Ma no, ma no, dai! Non mi ricordo, questa era un po' di sgarbiana. Sì, di sgarbiana. Sì, giusto per scaldare, varia. Lei dice i motori, no? Esatto, giusto per sgarbiare su motori, qualsiasi argomento a caso, non sì, era importante, così, qualsiasi no, argomento. Ma non c'è tema, non c'è tema. Allora, invece, un argomento serio è questo qua. Questi di Sel, roba di cui non si occupa nessuno, pensavo diciamo la verità. Pensavo parlassi della rissa 5 Stelle, pensavo no, di ma quella rissa 5 Stelle, chi se ne frega? No, la vicenda di Sel, di cui non si occupa nessuno, cioè non è che giri per strade e dici ma oggi c'è qualche transfuga da Sella al Partito Democratico, no, non gliene frega nulla a nessuno, niente, niente a nessuno. Però c'è una piccola cosa da dire, che mentre passavano quelli diciamo dal centro-sinistra, i dipietristi per esempio con Berlusconi, erano considerati dei reietti, dei pezzi di merda, degli stronzi, dei figli di puttana, cioè i vari Scilipoti, i vari Razzi, insomma banditi per sempre dal mondo civile. Però, banditi, perché è diverso? Banditi perché sono più, che cosa, sono più snob, no, perché sono amici tuoi, perché parlano no, meglio miei, no, perché, per quale motivo? Perché è migliore, perché migliore è migliore di Razzi? Perché migliore è migliore di Razzi? Perché? Perché beh, è migliore di Razzi? Mi porti a nozze, no, ma perché migliore è meglio di Razzi o di Scilipoti? Motivo, ma perché migliore Gennaro? No, vergognati, non vergogna. Ha cambiato schieramento come no? Politico. Passa al governo col Partito ma non Democratico. Ha cambiato schieramento. Ma lascia perdere, passa al governo del centro-sinistra. Ma non dire no, stronzate, è all'opposizione. È all'opposizione adesso. Invece passa no, no, con il Partito Democratico momento, che è al governo. Ma non è di, non è passato vergognati, dal centro-sinistra uguale, al centro-destra. Non è andato senti, con Forza non è Italia, quello il punto, no? Non stare a sottilizzare. Beh, migliore no, è come Scilipoti. All'interno è del come Scilipoti. È ma come Scilipoti. Ma tu sei pazzo completo dalle gare. Picerno contro. Sei pazzo. No, Picerno contro. È uguale. Pazzo. L'operazione è la stessa. È all'opposizione ma va con la maggioranza. Uguale. La stessa cosa prima. Quelli all'opposizione andavano con la maggioranza. Ma che sciocchezza. C'è stato un dibattito. Ma c'è, è andato nel PD. Quando è andato nel PD. Quando tocca la sinistra c'è il dibattito. No, io altre volte ho detto che Riccardo intervieni, ti prego, Riccardo! Ah, Riccardo, ti prego, prego, intervieni, ti prego! Zona scouting, che cos'è? Cioè il fatto che il Partito Democratico e bisognerebbe anche un pochino rispettare il pensiero, la volontà, sì, l'azione sai, di parlamentari. Scouting eletti è una parola positiva, la sì, diceva ma Bersani parlando delle 5 Stelle, se lo sì, ricorda. Ma se quasi sottende l'idea che Guerini va a cercare, bene, come si è detto. Solo in questi casi si usano questi parlare, ragionamenti. Ma quando è successo per Razzi, però, quando è successo per gli altri, no, sono stati ma definiti la spazzatura del Parlamento. Quando succede al migliore invece è una cosa spontanea, ideale, no, però, se è sempre la stessa cioè, cosa, se lei è l'attrazione del magnete, no? Well, okay. Well, all right, sir. I have my reason. Ma ha ragione Paolo Liguori, ma ha ragione Paolo Liguori al 100%. No, ma chiariamo una no, cosa. Se lei mi sta paragonando migliore no, a Razzo Scilipoti, ma no, ma solo è perché parla meglio, ma solo non perché è suole così candidare il sindaco di Napoli è uguale. Migliore era d'accordo con la misura dell'80 euro, faccio per dire. Di sottilizzare, ma Vacco Piccino nell'area del centro-sinistra non va in un altro schieramento. Era all'opposizione e va col PD che è al governo e governa con Alfano. Questa è la realtà. Ma che stupidaggine. And that means I'm gonna go bite, bite, bite, white, white, sir. Yes, I'm nature's mosquito. I'm gonna go bite, yes, bite. Non vi avevo mandato in onda nei giorni scorsi una dichiarazione incredibile di Roberto D'Agostino, Dagospia, eccetera, eccetera, per chi non lo conoscesse, su Mick Jagger. Su Mick Jagger. Mick Jagger è la prova che la droga fa bene. Vi assicuro che ha detto così, 8:30. Come si chiama Mick Jagger? Mick Jagger, 72 che è la prova anni. Che la droga a volte fa pure bene, perché a 72 anni ballava, saltava, zompava, dico, ma stai. Dago numero uno. Allora ragazzi, io vi dico una cosa che trovo insopportabile quelli insopportabili. Adesso chiamo migliore, guarda un po'. No, ma puoi chiamare chi vuole tanto, non vuole venire qua, chissà perché non vuole venire per gli scherzi che abbiamo fatto a Bendolo, non me ne frega nulla. Aspetta un attimo, fermo. Allora ti dico una cosa, trovo insopportabili quelli che protestano per i giornalisti in particolare, per la pagina oggi pubblicata dal Corriere della Sera di familiari, amici di Dell'Utri, i quali lo appoggiano, gli danno sostegno, eccetera. Dicono, beh, la direzione del Corriere sera non poteva pubblicare la pagina. Ma perché non poteva pubblicare la pagina pagata di pubblicità? Perché sì, non no, si può fare una pagina a sostegno di Dell'Utri? Pure un amico, un collega, Lirio Abate, scrive beh, è una vergogna, perché adesso ci aspettiamo una pagina, quando una pagina di solidarietà nei confronti di Torina, di Provenzano, eccetera. Beh, è una provocazione, chiaramente. Però il fatto, adesso, se, diciamo, se, fermi, tutti, fermi tutti, cittadini padovani, cittadini padovani, caro sindaco di Padova Bitonci, che non vuoi venire qui alla Zanzara, io mi dissocio dalle parole di Toscani, non sono d'accordo con le parole di Toscani, te lo dico subito, non sono d'accordo. Oliviero? Ma non ti ricordi neanche cosa ho detto? No, mi ricordo. Non sei d'accordo cosa? No, mi ricordo cosa. No, ma io non ce l'ho con i cittadini padovani. Ma come ce no? Ce l'ho con quei subumani che hanno votato Bitonci. Aridai, Subumani però. Ma scusa, subumani. Ma perché subumani, scusami? Perché di sì, non si può votare uno che dice quelle cose lì, un cittadino, un uomo ufficiale, cittadino di una città, che discrimina chi, i poveri senza tetto, che disprezza una parte di una cittadinanza. Però comunque, scusa, fa semplicemente dei provvedimenti, anche, dei provvedimenti per la sicurezza, provvedimenti coglioni, per ma che sicurezza? Sicurezza sono quelli del Mose, sono quelli lì che rubano. Vabbè, quello l'hai già detto, però i galan, ma galan che fastidio gli danno i barboni a Bitonci? Ma che fastidio gli danno? Beh, vuole fare delle ordinanze contro i Campinomadi, contro gli accattoni. E basta, e farò una class action. Come una class action? Sì, questo è con bello. Tutti quei cittadini che non l'hanno votato. Ma ti vuole querelare lui? Ti vuole querelare? Ti vuole portare in tribunale? Lo controquerelo, sì, con una class action con tutti quei cittadini che non l'hanno votato, che lo detestano e che la pensano come me, e ti posso garantire che sono tanti. Beh, tanti, innanzitutto tanti. Quelli che l'hanno votato e sono di più. Vinceremo la causa e la daremo in senza tetto per fargli una casa, non male, no? Allora, io voglio capire una cosa. Oliviero Toscani dice, farò una class action nei confronti del sindaco. Con tutti quei cittadini che sono contrari a Bitonci, che non l'hanno votato e lo detestano. Ma una class action significa una, come dire, una causa in tribunale? Causa in tribunale, sì, tutti insieme. Ma per che cosa? Ho già tante sottoscrizioni. Ma per quale reato, scusa? Per aver detto quello che ha detto. Ah, per i suoi provvedimenti, non è che uno può portare in tribunale una persona appunto. Così. Eh no, per i suoi provvedimenti. A parte il fatto che lui è un vigliacco. Perché? Mi fa una mi denuncia, sì, mettendosi dietro al comune, facendo pagare ai cittadini, anche quello che lo detestano, le sue cause personali contro di me. Perché lui, essendo vigliacco, non mi fa una causa personale, perché io ho insultato lui, non il comune di Padova. Però lui si fa pagare dagli avvocati, cioè paga gli avvocati del comune per le sue cose, perché è un vigliacco, quindi non mi affronta personalmente. Vabbè, questi sono dettagli, però che faccio. Vabbè, dettagli che dimostrano la personalità, insomma, dai. Dobbiamo fare una spedizione a Padova e fare una grande diretta della Zanzara, una specie di Radio Roma, Radio Clochard. Ma a Padova non può entrare, no. Toscani gli menano se va a Padova. Ma allora, sono lì dopodomani. Che vai a fare dopodomani? E se mi menano sarò felice, questo dimostra che ci sono tanti subumani. Tu non ho capito, che vai a fare a Padova dopodomani? No, vado a Valdobbiadene, comunque. Ah, Valdobbiadene, vabbè, ok, mica la stessa cosa. Sì, vabbè, insomma. Un attimo, che ci sono altre cose di cui parlare. Toscani annuncia class action con i cittadini padomani contro il sindaco Bitonci, che noi abbiamo invitato e che non vuole venire qua, attenzione. E ancora a casa, Evo. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Ma questo bisogna sempre ricordarselo. Dichiarazioni, potevi tranquillamente, sì, si poteva tranquillamente mettere questa cosa e pubblicarla su Corriere della Sera come hanno fatto gli altri, caro Parenzo, uguale, identica. È un'inserzione a pagamento, cioè, poi è chiaro, il CDR ha il potere di discutere. Vabbè, lascia perdere, non frega nessuno dal CDR. Io, a me, la sola parola CDR mi dà fastidio, solo sì, pronunciarla. No, d'accordo, però bisogna spiegarla questa cosa qui dell'Utri. No, vabbè, dopo la spiegheremo. Intanto, a Padova, caro Toscani, è obbligatorio il crocefisso nelle. Lo so, ma dico, è incredibile questo devo dire la verità, questo è incredibile, questo ma è incredibile. Questo dimostra il cervello di questo subumano, cioè che dimostra, scusa. Ma come fa uno obbligare il crocefisso quando sa benissimo che insulterà tutta una serie di cittadini che sono anche loro cittadini italiani? Magari non insulta. La Costituzione dice senza differenza di razza e religione. sì, l'Italia. Adesso no, ma io sono d'accordo con te su questa roba qua del crocefisso. Allora, questo qua obbliga il crocefisso, no, ma questa è una follia. È una carognata, così, è una carogna proprio. Può fare solo una cosa così. Io dico una cosa, caro sindaco Bitonci, sui provvedimenti sulla sicurezza io non sono d'accordo con Toscani, sono d'accordo con lei, perché lei vuole fare dei provvedimenti, poi vedremo come, con sull'accattonaggio, sull'imbrattamento, sulla mendicità molesta, sui campi nomadi, sulla prostituzione, sul consumo di alcol fuori dagli spazi consentiti. Le città vanno curate, e su questo sono d'accordo, ma senza discriminare. Non è d'accordo, non sei d'accordo. Ma sono d'accordissimo, ma non con quel sistema lì. Ma cosa vuol dire curare? Mica vuol dire punire, casino, punire i poveri, casino, vuol dire. Ma che punire i poveri? Ma cosa vuol dire punire i poveri? Ma che idea avete della pulire, parlando di esseri, certo, umani? Una città, ma ti sei barbarito anche tu. Anche contro Cruciani. Certo. No, però il crocefisso, la roba del crocefisso è un abominio. La roba ti crocefiggeremo, ti metteremo nelle classi. No, io che non c'entro niente, io. Magro sei magro come lui, quindi non c'è problema. Il crocefisso è obbligatorio, è un abominio. È un abominio. No. Non penso. È una cosa assurda, ma non serve a niente. Poi, no, ma è più grave quello che ha detto sui poveri, sulla sì, gente senza tempo. Ma se uno ti viene a rompere i coglioni per strada a chiederti i soldi, si potrà fare qualcosa per limitare? Ma avrà diritto il povero. Ma scusa, ma solo so che ci sono tanti poveri senza tetto che rompono i coglioni, ma lo so bene, ma questo non è un sistema per eliminare. Scusa, ma che sistema è? Ma scusa, tu ci pensi... sono dei neri che rompono i coglioni, degli ebrei che rompono i coglioni, ma con questo non è che ne devi essere anti-ebreo, anti-nero, anti tutto. Ma io sono contrario a questa campagna di Toscani, sì, su Padova, ve lo dico subito, sono contrario. E vabbè, chi se ne frega. Parezzo è d'accordo. Ti citerò dicendo: guardate chi è contro di me, Cruciani. Quindi ho già ragione. Non so io, non si. Tu sei abituare che i poveri esistono. Io stimo Toscani, che i poveri esistono, e chiedere la carità, se ragazzi, uno non ha nulla, è il minimo che uno possa fare. Provvedimenti sulla sicurezza non significa essere contro i poveri. Non rompete i coglioni con questa storia. Ma impedire la carità. Senti. Ma io non lo so. Volevo solamente. Senti, ma il crocefisso per te che cos'è? Ma è abbastanza pornografico come immagine, eh? No, non dire così, però, ti prego. Inchiodato su una croce, sì. No, ma è abbastanza incredibile. No. No, ma scusa, guardalo bene adesso, non fare il cattolico, pensa di arrivare da un altro mondo, vedi una persona così, sì, in questa condizione. Beh, ho capito, però non si può dire così. Ma però lo so, non si può dire, no, ma è un simbolo sacro. Mai chiesto, io lo trovo molto pornografico, sì, pornografico. È un po' sì, per la pornografia non è solamente sesso, è anche quel gusto lì, insomma. C'è un qualcosa di sadico, dici tu? Ma dico, è l'immagine di un sadismo incredibile, per di più davanti al quale tutti ci inginocchiamo, mi sono sempre chiesto. Sì, sì. Guarda, io sono più anticlericale di te, per cui su questo terreno No, io non sono anticlericale, no. Io sono laico. No, non sono anticlericale, assolutamente. Sei ateo. Uno può fare quello che vuole. Sei ateo. Io no, sono laico. È anche un po' ateo, dai. No, ateo vuol comunque dire che ha anche fermato il Ramadan in una palestra, Bitonci. Anche fermato, cioè non ha dato l'autorizzazione. E vado avanti così, perfetto. Vabbè, ma dove vanno questi? Vadano davanti al comune a fare il Ramadan. Ma scusa, c'è il diritto alla libertà di confessione in questo paese? Ora, è una cosa bestiale non concedere, ha reso obbligatorio il crocefisso, e ha detto no al Ramadan, non ha dato l'autorizzazione a svolgere il Ramadan all'interno di una struttura. E invece si può fare la festa padana. Pensa fra qualche anno come rideranno di questo qua. Ma certo. Ma è incredibile, così fuori tempo. C'è un comico, dici. Ma un comico pericoloso, non ho capito, un comico pericoloso. No, ma è ridicolo, è fuori tempo, tutti sti leghisti lo sono. Ah. Siamo nel 2014, dicono ancora delle cose, per fortuna mi fanno ridere, ma c'è da vergognarsi. Però è Taib che compra l'Italia, va bene invece. Ma gli arabi che c'è? Cioè i capitali, fatemi capire, i capitali degli arabi che comprano pezzi della nostra industria vanno bene, sì. E poi se uno rispetta la religione e chiede uno spazio al chiuso dove festeggiare, poi sono a Viale Jenner per strada e vanno mandati fuori a calci del sedere. Cioè, è questa la logica di questa gente? È questa la modernità di queste persone che vogliono governare il paese? Gli ex capi della Lega, Bossi eccetera eccetera, i figli sono stati rinviati a giudizio per alcune spese pazze, no? Per le spese pazze perché rubavano, dai, ma dico, ma certo, è tremendo, soldi pubblici, a parte che il processo ci deve ancora essere. Roma ladrone, loro peggio. Dentisti, vestiti, lauree, insomma. Appunto, hanno speso un sacco Roma, di quattrini nostri, quattrini e loro nostri. Peggio. In Padania peggio. Senti cosa dice, il direttore di Radio Padania, anzi no, il direttore della Padania su di te, Musica maestro, musica maestro, musica. servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. E ieri sera un vostro ospite ha, secondo me, commesso un abominio, che è quello del razzismo intellettuale, e ha voluto definire Massimo Bitonci subumano. Ha definito tutti i leghisti non degni di appartenere alla razza umana. E questa onta verrà lavata col sangue, immagino, a Radio Padania. Ma sa, insomma, ripeto, l'impotenza di un uomo che gode solo della sua così vana parola, alla fine, insomma, sai, patetico. Impotenza di un uomo patetico. Poi dice: poveraccio Toscani, cosa non si fa per campare? Sentiamo pure questo. Oliviero Toscani. No, perché lui poveraccio. No, nel senso che non dicevi chi era il nome. No, mi spiace che sfrutti una radio seria di gente per bene, di grandi professionisti del giornalismo come voi. E quindi, insomma, però vabbè, lui quello deve fare per campare. Vabbè, Rosana, non c'entra un cazzo, noi ospitiamo chi vogliamo. E meno male che ringrazio, possiamo... che mi fate campare. Guarda, che Cruciano ha sempre detto: grazie alle tue elemosina, io sono un senza tetto, un barbone. Come vedi, tu li aiuti, mentre questo sindaco non aiuta niente. È un disastro, non ha neanche la aiuto fantasia. Il barbone Toscani, diciamo. Io sono il barbone Toscani che per campare dico queste cose. Avete capito queste teste che hanno questo qua? Io ho visto dei commenti, non sanno neanche scrivere, sono analfabeti, degli ignoranti. Ma chi è analfabeta? Chi è analfabeta? Ma io vedo questi qua della Lega che scrivono su tweet, che twittano, fanno queste cagate, non sanno neanche scrivere, scrivono A senza H, avere... No, ma è tremendi, sono incredibili. Però scusa, è uno che vuole mettere i vigili nei quartieri, vuole dare meno soldi all'associazione degli immigrati, vuole mettere un po' di ordine alla città, perché deve essere tacciato di razzismo? Io non lo capisco. No, non ha detto questo, lui ce l'ha proprio poi per l'atteggiamento che ha nei miei confronti, nei nostri confronti, dovrei mandarlo a fare in culo pure io, però non me la sento. No, non ha parlato di sicurezza come visione, ha parlato dei barbone e dei senza tetto, cioè parte discriminando subito una certa categoria di persone. No, l'accattonaggio, la mendicità molesta, l'imbrattamento, i campi nomadi. Ma una che non lavora ed è ai margini della società avrà almeno il diritto di chiederti un euro, avrà diritto di venire lì e chiederti che male ti fa? Vedi, dovete persino più buono di me. Ma io non lo so, bisogna convivere siete personaggi. Ma esiste la povertà? Esiste. Cruciani è povero, ma non si rende conto, lui è fortunato. Ma dai, smettetela. Senti, non voglio dirti una cosa, D'Agostino, il tuo amico D'Agostino. Che ha fatto D'Agostino? Io dissi quando riprendiamo fra un quarto d'ora, no, Oliviero, perché sennò ho la pubblicità. Lo sai quanto che c'è di D'Agostino? Io dissi quando fu eletto Mario Monti, io dissi alla stessa età di Mick Jagger, allora la droga fa bene. Fu anche pubblicato sul suo giornale e lui è un copione D'Agostino. L'hai detta tu. Sì, gli ho detto Mario Monti. D'Agostino copione. Tutti i discorsi che fa Cruciani inizia dai soldi, dalla politica, ma va a finire tutta puttana alla fine. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba molto spesso qui si corica, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. Cosa ti dà l'impressione che io sia diventato un depravato? Dimmelo. L'impressione, ma mica l'impressione, cioè uno come te, che ci hai sfraganato i coglioni per 2 settimane, io so 3 anni, 4 anni che t'ascolto, cioè t'ascolto a lavoro ogni tanto, accendo la radio. C'è sfraganato la chiudione 3-4 settimane con questa sciarpa profumata e ti volevi troppare a quella e siccome non l'hai vista più aspettavi che ti chiamava e c'è sfraganato i coglioni per 4 settimane la sciarpa profumata. Una volta ho visto sulla webcamera quando ha invitato Efebal, ricordi quando togli quel coso che ce l'avevi sulla spalla. No, sulla spalla non ce l'avevo. Quasi qua ti piaceva. Perché tu devi dire a Parenzo, ce l'avrebbe il coraggio lui di incularsi a quello là? Di incularsi? Ma a se lui scimmia, scusi, a quella scimmia. Ma qual è la scimmia? Non mi fa parlare sporco. Oppure quello come si chiama? Chi è? Quello col ciuffo biondo là, come si chiama? Porco giù, non mi stappa. Siamo calmi. Chi è? Malgioglio. Chi è? Quelli, Giuseppe, dico io, quelli fanno tutti i finocchi, Giuseppe. E tu domandi a loro da quando non fai sesso. Ma che ti interessa a te quando fanno sesso? Quelli non si fanno un'angulata minimo da 50 anni, perché proprio se li deve inculare allora. Proprio un professore di primo livello. Professore di fasciale, è vero? È un ordinario, tu, lei, vero? Tu non parli perché ce l'hai tu due centimetri. Ma che c'è, Angelo? Scusami. Saremo tutti nudi, tutti rosa, pua rossi. Perché non chiama Marisoni? Perché l'amico tuo, quello che conduce il programma, è lui, vedi, stava parlando di calcio prima, dal calcio sono asciutta la puttana. Sta parlando di Fred, parli di Fred. Scusi, ma professore, da 160, che ne pensate di aprire le case chiuse in Italia? Dallo spread se ne va alla puttana. Tutti i discorsi che fa Cruciani, inizia dai soldi, dalla politica, ma va a finire tutta puttana alla fine. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Matteo Renzi, via libera Juncker, ma solo con un programma chiaro. L'Europa deve darsi una mossa e pensare di più a famiglie e disoccupati. Più tempo per ridurre il debito e non soffocare una debole ripresa, questo è l'obiettivo dell'Italia. Squinzi, all'economia serve una forte scossa e Renzi può darla. Crescono le firme all'emendamento della minoranza PD per il Senato elettivo. Forza Italia, restiamo noi gli interlocutori del governo, no alle preferenze. Si insedia il presidente dell'anticorruzione Cantone, che vigilerà sui lavori dell'Expo, appalti poco chiari, sanzioni alle aziende sotto inchiesta. Gli azzurri rientrati dal Brasile, ancora polemiche sulle responsabilità della disfatta. Suarez, 9 giornate di squalifica per il morso a Chiellini. L'autopsia su Ciro Esposito, ucciso da un colpo alla schiena. Domani funerali in piazza Scampia. La madre ripete, basta con la violenza. 12 anni dopo il delitto del figlio Samuele, concessi i domiciliari ad Anna Maria Franzoni. È cambiata, dicono i giudici, ma non potrà tornare a Corte. Le zanzare di casa. Allora, ragazzi, c'è da dire una cosa sulla vicenda Franzoni, eh? Avete sentito prima dai titoli del TG3, solo in Italia può accadere. Lo dico al di là delle leggi che ci sono, non me ne frega assolutamente nulla. Solo in Italia può accadere che una persona, uno può pensare che come il professor Taormina che sia innocente, eccetera, eccetera, una persona condannata per l'omicidio del figlio, esca dalla galera dopo quanti anni? Dopo 12 anni? Una cosa 12. Del genere, 12 anni. Allora, solo in Italia può accadere che una persona condannata per l'omicidio del figlio vada ai domiciliari, non dico tranquilla perché ovviamente non è tranquilla, se ne vada ai domiciliari dopo 12 anni. Diciamo la verità. Può accadere solo in Italia. Diciamo la verità. Può accadere solo in Italia. Diciamo però anche che i domiciliari può accadere solo in Italia. Ma i domiciliari non vuol dire che può fare quello che le pare. No, ma non ho giorno, detto questo. È una misura restrittiva. È vero restrittiva. O non è vero che solo in Italia può accadere una cosa del genere? Dimmi la verità. È vero un, o no? È una tu puoi pensare è un modo che invece sia il trionfo dello Stato di diritto, no, della civiltà e tutto. No, va benissimo. Io non lo penso. Io dico che dopo 12 e passa anni, forse qualcosa di meno ha fatto, non 12 anni di carcere. La misura dei domiciliari è comunque una misura restrittiva. Ma no, ma certo, non che devi dare il messaggio che la signora Franzoni scorrazza per da Bergamo a Racalmuto in vacanza. Ma chi ha detto questo? Chi l'ha detto? C'è un altro figlio che lei ha, c'è un altro bambino. E allora? Il poter stare a casa dillo, è una misura di civiltà. Il fatto che una madre che ammazza un figlio dopo 12 anni esca dal carcere, dillo, è una misura di civiltà. Abbi il coraggio di dirlo. Bisogna leggere il dispositivo. Basta con queste cose, devi dire è una misura di civiltà. Basta, bisogna leggere. Ma chi se ne frega, devi dire. Beh, no, è fondamentale capire le ragioni che hanno portato i giudici. Non sei in grado, non hai il coraggio di dirlo. No, ma se c'è una legge che consente che un omicida del in particolare a favore dei domiciliari dopo che è stata scontata una parte della pena. Sei a favore, sei dopo a favore. Non lo trovi, non lo trovi. Ai una... domiciliari. E la non è stata David, ma non c'è bisogno che, lo, che sottolinei questa cosa. Ho detto vai ai domiciliari, non è fuori a prendere il caffè, il cappuccino ogni mattina al bar, è ai domiciliari. Comunque dopo 12 anni che ha ammazzato un figlio. Ma l'abbraccio con il bambino l'hai visto? L'abbraccio con l'altro figlio? Ma non mi interessa, ma è normale che abbracci il figlio, ma è normale, non mi interessa. No, non mi interessa, devo dire che mi interessa, non mi interessa. Oliviero, che sono? Che sono un carnefice, sono un... No, io penso che invece un grande... sono molto fiero dell'Italia, perché questo può essere un grande segno di civiltà. È arrivato un altro, dai. Allora, ascolta, Breivik, quello che ha ammazzato 89 ragazzini in Norvegia, a Oslo, sì. starà 21 anni in carcere. Sì. Perché la Norvegia prevede che il massimo della pena sono 21 anni. Poco, troppo poco. La Norvegia, ma non è che è migliore. No, basta. Invece il fatto che una roba così succede in Italia, forse è un grande... un grande segno di civiltà. Può grande essere anche un grande segno di civiltà. Bah, io dico, veramente siete impazziti tutti. Cioè, non è vero, ma non è che... Ma chi ti ha detto che 30 anni sia giusto, 40 anni sia giusto? Forse... Vabbè, ma mandiamo fuori tutti, allora. Ma eccolo, che ci frega? No, non mandiamo fuori tutti. Non mandiamo fuori tutti, appunto. No, non mandiamo fuori tutti, assolutamente. Vabbè, ma io rispetto quello che pensate. Se pensate che questo sia un grande segno di civiltà, il fatto che potrebbe una madre... Potrebbe essere... Prova a vederlo in un altro modo. Se lei ha capito, se ci sono... Io non posso decidere, Certo, analizzo solamente questa situazione. Una donna ammazza il figlio in uno stato di incoscienza, perché lì è stato anche provato, non so, comunque hanno capito gli specialisti, gli psicologi, che questa donna ormai non può più uccidere. Ha due figli a casa, fra l'altro uno nato anche dopo. A parte che, come sai, nelle considerazioni degli psicologi se uno può ammazzare o no, cioè, abbiamo visto altri casi. Magari hanno ragione anche, Allora, no, ma per carità, io non voglio... Una donna così per far cosa? A farla marcire lì? Ragazzi, ma ha ammazzato un bambino? Ma di cosa state parlando? Lo sappiamo, certo. Cioè, è veramente una cosa pazzesca. Ma lo so, ma non sono qui a dire che è innocente. Sto solamente dicendo che un paese che può, ha la capacità e la sensibilità di riconoscere... E di che far ricongiungere una madre con gli altri figli? Nel senso che non è pericoloso, può essere molto interessante invece. No, ma io non lo capisco. Sì, perché non c'è la... Quello che tu non capisci e che molti leghisti non capiscono... Ormai, perché tu sei tutt'uno, è la vendetta. Cioè, lo Stato non deve vendicare, lo Stato deve essere giusto. Senti, Oliviero, la vendetta lo fanno i paesi non democratici. Sì, la giustizia lo applicano i paesi civili. Oliviero, civili. Che ne pensi? Invece della Franzoni metteremo in galera il sindaco di Padova, dai. Ma che c'entra in galera? È subito. Lo vuoi pure in galera? Senti, Oliviero, ma Balotelli, che ne pensi? Hai sentito che ha detto? Cioè, i fratelli negri non mi avrebbero abbandonato come mi hanno scaricato gli italiani. Quello è fuori luogo, dai. Non mi dire che gli dai ragione questo. Sì, ma non è perché è Balotelli è nero, ha sempre ragione. Ti sto dicendo, ci sono tanti neri che sono stupidi e tanti cose. Non bisogna essere razzisti fino a quel punto. Bisogna riconoscere l'essere umano al di sopra della sua appartenenza. Beh, questo no? è il razzismo al contrario, però. Cioè, i bianchi mi scaricano, i negri non abbandonerebbero mai i loro fratelli. Un razzismo al contrario. Ma io credo anche che dovrebbe chiederlo a tutti i negri come dice lui, perché i neri forse tanti sono molto incazzati con lui che si comporta così, ti posso garantire che può essere anche il caso. Sì, perché la scusa di essere nero non giustifica, così come il talento non giustifica tutto, insomma. Dai. Cos'è che ti dà più fastidio di Balotelli? Dal punto di vista l'ostentazione della ricchezza. Sai cosa mi dà più fastidio di Balotelli? Che purtroppo ha avuto un'educazione italiana. Italiana, non so per dire, ha avuto l'educazione italiana e è viziato. Lo diceva anche Mourinho, è un ragazzo viziato. Cioè, è tutto giustificato per lui. Forse è una famiglia di Bergamo. Di Brescia. Non particolarmente. Ma io non voglio fare gli hanno voluto tanto bene, insomma, il volere tanto bene, tante volte. Che fosse cresciuto non in Italia sarebbe stato diverso. Forse sarebbe stato più interessante, sì. Ma tu sei anti-italiano, ormai sei diventato ferocemente anti-italiano. Cioè, ma non è vero, cioè, il censore le mamme italiane sono un disastro. No, toglie i problemi ai figli non aiuta i figli. Ma l'ostentazione della ricchezza, togliere il disagio non aiuta a togliere il disagio, aumenta il disagio. Senti, ma l'ostentazione, questi ragazzi devono affrontare il disagio. L'ostentazione delle sue ricchezze, che ne so, la macchina, la Ferrari, i gioielli. È tipico, perché al povero ragazzo gli è stato aumentato il disagio di essere così. E questo è quello che io penso, è molto personale, ma no, io ma... mi ricordo che Mourinho, quando ho lavorato per l'Inter, non so se lo sapete, ho fatto il libro dei cent'anni e c'era Balotelli e Mourinho diceva questo, che un ragazzo che è un po' viziato. Ma c'è speranza, no, no? C'è speranza di crescere ormai? Ma io spero, figura, un ragazzo giovane, poi quando si renderà conto delle grandi opportunità che lui ha, proprio perché è così. Lui ha in mano una grande opportunità, insomma, anche l'Italia si sta evolvendo, ci sono nuovi italiani che arrivano, che il sindaco di Padova li vuole eliminare. Ma non vuole eliminare quelli che arrivano. Ma come no? Tu sei un collaborazionista. Cioè vuole eliminare gli immigrati, secondo te? Ma vuole eliminare tutti i diversi, dai! Eliminare i diversi, ti vuole sopprimere, tipo Hitler. Ma lo stai paragonando a Hitler? Paragonando a Hitler, a un piccolo Hitler. No, se Padova c'è un po' questo problema, avevano tirato sui muri. Non so, forse c'è tutta una percezione. Secondo te è un piccolo, Hitler? Parenzo. È un piccolo Hitler, secondo te, Bitonci? Ma non ho detto questo, ma assolutamente. È uno di quei padovani che hanno un problema con chi è un po' diverso. Vabbè, ciao Oliviero, a presto, ti abbraccio. Ciao. Così Parenzo ce l'ha con te, quindi lì ce l'ha con gli immigrati. Ciao, ti abbraccio, ciao. Caccia fuori sti sordi, Cruciano, è inutile che te mozzichi le unghie là che te vedo qua sul computer. Caccia fuori i sordi. Le zanzare, yeah. Cari amici della Zanzara, popolo della radio, collegati, tutti quelli che sono collegati, abbiamo scoperto qualcosa di fondamentale. Siamo riusciti a pizzicare il capo di Sel, o ex capo, sai che no, forse non sarà più il leader di Sel, ma esiste ancora a sinistra Ecologia e Libertà, questa è la domanda, no? Il partito della sinistra italiana, ma o qualcuno certo dice, esiste ancora? Io non lo so se esiste. Non lo so, può darsi che non esisterà più. C'è comunque il signor Fratoianni. Abbiamo pizzicato Bendola, che ha dato completamente di testa e si è messo a cantare da solo. Sentilo. Ho presentato le dimissioni, ma sono state nettamente respinte. Inutile sperare, in Sel non resterà nessuno. Uno stillicidio. Migliore se n'è andato fuori con il suo casino. Una diaspora, bocca d'utri dopo Zan. Tutti i correnzi se ne andranno. Sono deluso assai, perché Matteo tu raggiungerai. È inutile chiamare a Sel, non ci sta più nessuno. È incredibile. Io sono basito. Poveretto. E la Spinelli ci ha fregato l'unico seggio europeo. Mi piange il cuore. Era importante, sai, stare in Europa noi. Beh, insomma, dai. Non ci sfasciamo mai. Ora sì. Penso la testa. Soli, se non è più un partito. Sono cose terribili. E come soli, anche soli, ma guarda nel gruppo chi c'è. Solo me. Soli. Perso la testa completamente. Scrive, ci sta stretto. Sono basito. Soli. Nel gruppo chi resta, chi c'è? Solo Niki. Solo me. Ragazzi, abbiamo scoperto questa chicca pazzesca. C'è Bendola che perde la testa e dopo il... Ma dov'era? Così a casa che cantava? Sì, da solo, si è messo a cantare, qualcuno deve aver registrato e poi ci ha consegnato, come spesso succede, questa cassetta, come dice Berlusconi, questa il mangianastre, sì, la cassetta, no, il mangianastre è quello che lo leggi, la cassetta, cioè. La cassetta con la registrazione. Il nastro. Nicky Bendola perde la testa. Io ripeto, su Cell, non capisco perché i trasfughi di Cell sono considerati, no, si fanno tanti ragionamenti, quelli che fanno i ragionamenti politici, ma quelli dici che sul dicono serio, no, ma sto dicendo sul assolutamente serio, sul serio. Oppure butti ma la palla, no, fuori dagli spalti. Ma niente, la distinzione tra passare, come dire, da ecco. Berlusconi, da Di Pietro a Berlusconi. Da IDV, ma il è passaggio uguale, da è la stessa IDV, cosa, se uno Italia va, dei valori, se tu scarnifichi Berlusca. Questa cosa qua, se tu la scarnifichi, no, questa cosa, e la rendi di... e la porti all'essenziale, e la porti no, l'essenziale non è no, quello ma che l'essenziale dici tu. L'essenziale è Gennaro Migliore e altri dicono 80, non possiamo dire di no agli 80 euro. Ma sulla questione degli 80 euro, ma tu sei veramente, ma si scontra il pragmatismo, è una questione di poltrone. Non rompere le scatole su questa poltrone? Cosa qua. Solo le poltrone, poltrone? Pensano che non c'è futuro restando che all'opposizione poltrone avrà? Migliore che poltrone. Ma, avrà? Intanto scusami. Si candida a fare le primarie a Napoli come sindaco. Per cui no, no, che ci sarà si una sarebbe poltrone... candidato comunque. Senti, che David, una cosa è candidarsi con Cell, una cosa è candidarsi col... Ma perché quando si tratta degli amici tuoi, ma quando si tratta miei, di quei amici, ma... ci sono solo no, ma ragionamenti. Ma non ho votato Cell. Ma non ho votato Cell. Ma non mi interessa. Ma quali amici miei? Voglio però ragionare. Ma mi sentire Gennaro da Milano. Ma che ragionare? Voglio ragionare sulle cose. Se non su è possibile su altri no. Gennaro su da Milano, cioè tu vuoi paragonare uno che è eletto con l'IDV che sì, passa sì, con Berlusconi a un passaggio all'interno del centro-sinistra. Non è all'interno del centro-sinistra, quelli all'opposizione. Io vorrei che oltre a quei quattro scalzacani che chiamano, oltre a quei quattro scalzacani che chiamano, stai trattando spesso, i tuoi ascoltatori sì, come degli scalzacani. Spesso chiamano scalzacani, va bene? Perché quello che ha telefonato vergognati prima, quello che ha chiamato prima era uno scalzacani con il signore. Devi vergognare di Bari, Gennaro da Milano. Ti devi vergognare, maniaci sessuali, ma Gennaro, pazzesco. Ci sono, ma se parla ancora Parenzo, mi fa orrore quello che dice Parenzo, orrore, mi fa orrore. Ciao, ciao a tutti. Considera i suoi amici no, quando fanno i passaggi dei fili intellettuali e Razzi e Scilipoti dei Buzzurri. Beh, è sempre solo questione di poltrone, devi rendertene conto, sempre solo questione di poltrone e di cadrega, sempre, quasi sempre no, così. Sì. In questo caso Gennaro, no. Ma sì, no, in bastano altri così del per ragionamenti politici, sì, per ragionamenti politici. Beh, direi alle volte c'è ma chi, c'è chi su, lo fa per i valori, vai. Alle volte c'è chi lo fa per i valori, sì, non per la poltrona. Gennaro da Milano, smettila. Pronto? Ci sono? Vai. Ciao, ciao Cruciale, ciao Lorenzo. Senti, io in questo caso devo dare nettamente ragione al Parenzo. Perché? Perché i signori Raggi, Scilipoti, De Gregorio, a parte che sono andati sulla trasponda pagati, comprati, venduti, e in più hanno fatto vedere il governo Prodi, in più. Ma a parte che non è vero, perché no, non hanno fatto cadere nessun no, governo. In questo dice, caso non hanno fatto cadere no, nessun no, governo, vero, hanno salvato il governo Berlusconi, che è diverso. Ma io non sto Berlusconi dicendo che sono dei geni, io sto dicendo che c'è un ragionamento che si fa con quelli di Cell e un ragionamento che si fa con gli altri. No. In fondo il risultato è lo stesso, no, certo sì, non salvano un governo, sì, passano dall'opposizione alla maggioranza, ma e questo, di questo si tratta. Hai detto due cose. Non hanno fatto una vendita, una vendita all'altro. Lei ragiona come Parenzo, già tu ragioni no, come no, Parenzo, no, ragioni come Parenzo. Perché c'è una scambio lo stesso, perché vedrete che tra poco tutti questi in qualche modo magari saranno ricandidati, oppure comunque semplicemente sperano di avere nuova vita politica col Partito Democratico. Andrea da Pesaro, grazie Gennaro. Andrea Pesaro. Salve. Non mi fate incazzare buonasera stasera, dai. Gennaro. Che c'era ancora quel no, anzi, Andrea, dai. Arruffa Popolo di come si chiama? Chi è l'Arruffa Popolo? Il fotografo d'accanto. Toscani, fotografo d'accatto. Bene, iniziamo bene, vai, dritto. Cominciamo molto male, perché io prima ero agitato, adesso mi sono un po' calmato, però la verità è che voi, è chiaro che siete una trasmissione comica, soprattutto Parenzo. Comica un cazzo in questo caso, stiamo discutendo nulla sul serio. Ogni tanto c'è un debole. Ma che voi dobbiate dare spazio a un fallito come Cruciani, che è anche un ignorante, che si può permettere di dare alle centinaia di migliaia di persone, o almeno più di 100.000, che hanno votato di Tonci, dei subumani, io penso che sia oltre ogni limite, per cui io purtroppo non voto a Padova, se no avrei mai votato Bitonci senza neanche un momento di... Guardi, Andrea, io non ho capito. Innanzitutto, noi diamo spazio a tutti, a chiunque. E ci prendiamo anche delle belle querele per ospitare chiunque. Pur non essendo d'accordo spesso con quello che dico, noi possiamo anticipare e prevedere quello che hanno in testa le persone. Voi invitate uno come Toscani solo perché evidentemente ci saranno dei motivi di autolesionismo. Che autolesionismo? Che faccio? Vado a letto con Toscani? Che faccio? Devo dire che poi rispetto anche molto le sue idee, dottor Cruciani, il comico che ha di fianco magari un po' di meno. Io ho detto che sono contro quello che ha detto Toscani su Bitonci, ma quante volte lo devo ripetere? Sì, però voglio dire, di un problema così serio come il fatto che la Lega prende una città come Padova dopo i disastri che ha fatto Zanonato. Ma guardi che per me, a parte il crocefisso, qualcuno meno ignorante e provocatore. Gli ospiti non li sceglie lei, ma li scelgo io. Secondo, io su tutti i provvedimenti per la sicurezza che farà Bitonci, a meno che non siano delle follie, eccetera, sono d'accordo al 100%. Il comico Parenzo preferiva il muro di Zanonato, ama il caos per le strade. Ma quale caos? No, ma i clochard non sono caos. Li mettessero dentro la Carità, sono delle persone umane, lo capisci, ma io non voglio che vengano. Io ho detto che bisogna bruciarli. Ho detto che per strada non va bene, il ricco Cruciani della radio non ha capito, io non ho detto che bisogna bruciarli. Non vuole vedere uno che chiede un euro perché non ha una lira e sta male. Ma guarda, siete delle persone. A te ti piace la gente per strada, invece a me sul letto. Io persone. Voglio che dormano sul letto, non ma per strada. Va bene, i soldi vengano spesi così, perché siete talmente ipocriti, anche voi del vostro partito, della sicurezza. Io non sono di nessun partito, il partito tuo è il partito del mettere belle e pulite le strade. Per cui non vi piace vedere la povertà che invece purtroppo esiste, da aumenta. Fammi sentire Alessandro da Milano, dai, Alessandro da Milano. Grazie Andrea, come fossero degli orpelli, come fossero degli oggetti. Vai Alessandro, vai. Parenzo, alziamo l'asticella, Parenzo. Cioè, in che senso? La gang bang, evviva! No, quella è un'altra cosa, la gang bang. Adesso cosa c'entra? Un altro tema. Caro Alessandro, va benissimo, per carità. Cioè, sono anche affezionato a queste cose, se poi mi fanno ricordare momenti felicissimi, eccetera. Però adesso questo che c'entra? Però la gang bang con Parenzo, Toscani e tutti i ron di Padova. Lei vuole dire questa roba qua. Per cui, Alessandro, lei ha aspettato in linea solo le 19:46 per dire questa cosa. E poi ditemi che non ho ragione su chi chiama. No, sai cos'è? Siamo tutti dell'esercito di Riccardo. E volevamo ricordartelo che siamo una potenza ormai. Quanti siete con l'esercito di Riccardo? Superiamo i 2000 fra poco. Caro Riccardo, mi faresti una cortesia? Quando puoi, caro Riccardo, quando ti senti a tuo agio, quando ti senti in forma, per carità, caro Riccardo. Stai titillando un ascoltatore, uno che hai reso che era un signore qualunque e rimarrà un signore qualunque. Lo stai titillando dicendo: ecco, adesso dopo quello che dirò adesso, sempre se vuoi, e me lo scateni come fossi un Doberman, perché lo tratti come un Doberman, capito? Ma dove vivi tu, caro Alessandro da Milano? Si fa un mazzo così, al contrario di te che non fai una mazza dalla mattina alla sera. Lavoro, amico mio, e non vuole vedere i ladri, vuole vedere le città pulite in ordine, vuole vedere la gente che prende provvedimenti sulla sicurezza. Fatevene una ragione, ci saranno sempre i mendicanti ai bordi delle strade e non dovete rompere i coglioni, perché le facce gialle hanno diritto di mendicare. Hai capito? Ricordi il film Fight Club? Che c'entra Fight Club adesso? Siamo così, l'esercito di Riccardo. Ma quale esercito? Caro Riccardo, quando vuoi, aspetta, quando sei in forma, quando ti senti in grado, quando ti senti la mente libera, il cervello pulito, in grado di intervenire, noi siamo qui. Certo, questa non non è l'Accademia della Crusca, e ormai lo sappiamo, ma uno sano di mente potrà chiamare dalle 18.30 ma alle 20.50. Ha chiamato sano, ma perché di devi mente dire così? Hanno chiamato persone assolutamente, assolutamente. Ma gente anche simpatica. Ma però, no, ma perché devi uno denigrare i tuoi ascoltatori? Solo. Io non chiedo che intervenga. Vabbè, sul professor guarda, Amato, abbiamo un ospite. Amato. No, abbiamo un ospite. Che fra poco, forse no? La prossima stagione, se ci saremo, o fra poco, o fra qualche settimana, sì, introdurremo la rubrica Parenzo a casa degli intellettuali. Ah, molto bello. A tra poco. Oh, io sto leggendo un libro fondamentale, caro Parenzo. Un libro fondamentale che è arrivato a 3 edizioni, 30.000 copie, forse anche di più. Libro che è abbastanza. Kama Sutra. No, lo sai, no, Kama Sutra l'ho già letto anni fa. Scusa, abbi pazienza. Certo, scusa. Un libro fondamentale, soprattutto perché non devi leggerlo. Non devi leggerlo dall'inizio alla fine. Sai quei libri? No, puoi prendere a caso un nome, un capitolo. Puoi certo leggere anche 3 pagine in 2 mesi. So, puoi fare quello che ti pare. Non è un romanzo, una di quelle cose pallose di 400 pagine che non ho il tempo e la testa per leggere. L'autore è Vittorio Feltri. Ciao, però, Vittorio. Ciao a tutti. Eccoci qui. Ciao, Vittorio Feltri, con sì, Stefano Lorenzetto, Buoni e Cattivi. Ma io l'ho letto, lo leggo soprattutto perché c'è, in maniera incredibile, una paginetta e mezza sul sottoscritto. Capito? Una paginetta e mezza sul sottoscritto. Le pagelle con il voto ai personaggi conosciuti in 50 anni di giornalismo. Innanzitutto, scusa, Vittorio, ma a scrivere i libri si guadagna? Ecco, l'importante, sì, dimmi, posso dire questo, sì, non è leggere il mio libro, è comprarlo, poi potete. Questo non c'è dubbio. Gli ascoltatori della Zanzara, direi, Vittorio, che sono obbligati, no? Direi, sono obbligati. Sì. Sono fortemente consigliati. No, ma io direi più consigliati, direi obbligati, perché se tu consigli, dici vabbè, la gente consigliate tutti, obbligati, sì, cioè, è un'opzione, hai ragione. Esatto, sì, bisogna. Però la cosa bella è che Felti dice non siete obbligati a leggerlo, compratelo, poi magari lo usate per mettere, per tenere fermo il tavolo, sì, oppure lo usi. Poi cioè, è anche bellino esteticamente, non è male. Beh, ci sei tu in prima pagina. Ci sono io in triciclo, insomma, proprio tu che non sopporti i bambini col triciclo, vabbè, mamma mia. E poi ne parleremo. Poi parleremo anche della paginetta e mezza su di me. Ma io tornerei alla questione dei danari, dei soldi. Sì. Ma si guadagnano dei soldi allora con i libri o no? Non ho pochi, capito. Pochi. No, ma tu in particolare pochi ne prendi di soldi? Cioè, pochi, non sufficienti per soddisfare la mia avidità. Tu perché sei notoriamente una persona molto avida. Beh, molto avida, cioè molto avida. No, cioè, nel senso che tu, per esempio, con 5.000 euro al mese non potresti campare, diciamo la verità. Non comincio neanche il mese, figuriamoci. Come non comincio il mese? Ma sì, ma certo, ma è normale, scusa, no, ma non è che dopo tanti anni che uno si abitua a guadagnare delle cifre molto alte, sì, è normale che poi dopo uno per 5.000 euro non ti svegli la mattina, direttore, perché ci rimani a dormire, ti conviene di ma più. No, beh, è chiaro che potrei vivere anch'io con 5.000 euro, ma vivrei male come te. Quindi preferisco guadagnarne 50, non so, dico, mi sembra un'ambizione giustificabile, ma no? Sì, ma assolutamente. Ma per cui questo libro ti porta qualche euro oppure li devolvi in beneficenza, oppure odi la beneficenza? Io per esempio odio la beneficenza. Sì, mi è capitato persino di farla, ma insomma in situazioni particolari. Io credo che il lavoro debba essere remunerato, naturalmente, sì, in modo adeguato ai risultati che ottieni. Dopodiché, se li ottieni, guadagni tanto, altrimenti pazienza, te ne fai una ragione. Ma insomma, non è un problema il denaro, no. Il problema è non averne. Sì, il problema è non averne, non c'è dubbio. Ma voglio capire, la beneficenza, per esempio, come la consideri? Io la considero una cosa, cioè non l'ho mai fatta. Devo dire la verità, non l'ho mai fatta. Abbiamo fatto questa cosa di beneficenza su questo, ma no, non l'ho mai fatto. Modo è modo di fare, sì, beneficenza. Devo essere tu sicuro di dove vanno i soldi, capito? Sicuro, sì, di dove vanno, certo, i soldi. Ma puoi intervenire in aiuto di qualcuno quando sai che finalmente ne ha bisogno, lo puoi fare, sapendo che non puoi contare sulla gratitudine di coloro i quali, sì, tu cerchi di beneficiare, no? Io ad esempio faccio beneficenza, sì, venendo in questa trasmissione non fare mai del bene a nessuno se non sei sicuro di poterne sopportare l'ingratitudine. Questo è il principio. Questo è, sono i, come dire, le massime feltriane, che gli aforismi del signor Feltri, che vanno, sì, sempre tenuti in considerazione. Io vorrei capire se tu da questo libro guadagni del denaro. Questa è la cosa. Sì, ne guadagno, ne guadagno. Adesso ancora non so quantificare, perché poi sai, oggi vendere 100.000 copie è molto difficile, e anche se vendi 100.000 copie puoi guadagnare 150.000 euro, cioè, non è che, vabbè, beh, insomma. Non è, sì, ma non è che ti, sì, cambia, non ti cambia la vita. La vita, dai, non ti cambia la vita. Ma non cambia la vita? Ma non ti cambia la vita, ha ragione. Ma, non ti, prego, ma non ti cambia nulla. Ma la maggioranza delle persone che ci ascoltano, 150.000 euro sono una bella sommettina. Ma non, sì, ti, ma mi dispiace per loro, ma io parlo per me, non è che posso interpretare il pensiero, certo, dei poveretti. Ma uno non poveretti, ho capito, però ma non ti cambia la vita se tu guadagni 150.000 euro al libro, non ti cambia la vita, che ci fai alla fine? Non ti compri manco un bilocale a Coso, un bilocale a Rozzano, dai, su. Sei un grande, bravo. Cioè, non ti compri manco, fai così, ti stanno. Però tu sei lo stesso che poi non vuoi vedere i poveri per le strade. Io non ho detto che non voglio vedere i poveri, io ho detto che Toscani, ho detto che Toscani, che è stato querelato da Bitonci, adesso ha fatto la controquerela, qui da noi è successo un casino, Vittorio, che la metà basta. Toscani dice delle cose assurde, perché per lui amministrare è così una roba in cui uno deve fare beneficenza, stare lì. Quello Bitonci ha preso o prenderà dei provvedimenti sulla sicurezza nella città di Padova che magari li prendessero altri sindaci. Vedere un barbone per strada a me mi dà fastidio, semplicemente perché vorrei che avesse un letto, non perché lo voglio bruciare. Anch'io la penso così. Diamo mi, dà, i soldi mi dispiace, per... mi addolora, mi disturba anche. Sì, mi disturba. Fisicamente è una cosa, certo, orrenda. Per sì, una città, vai a Roma, vedi quella, quella stazione Termini ridotta ad una discarica mia, di barboni. Ragione. Ma meglio io ce l'ho con i barboni. Mica dico che sono degli stronzi i barboni. Dico che tanti soldi buttiamo. Tu lo sai, ho scoperto una cosa pazzesca, ragazzi. Dare i soldi all'associazione, certo, che si occupano di... No, ma allora... dare i soldi per quelle cose lì, non buttarli nello Stato, non però pagare poi, i funzionari pubblici. Alle... Ma certo, ma siamo tutti d'accordo, allora, ragazzi, su questo. A Palermo, ma... a Palermo, voi vi rendete conto di come è ridotta l'idea, di come sia irrecuperabile questo paese? Irrecuperabile. A Palermo c'è un signore, un burocrate, che guadagna 1.600 euro al giorno. Un signore che si chiama, qui leggo da Repubblica di ieri, me lo sono ritagliato, Sebastiano Di Bella, 61 anni, segretario generale dell'ARS, un covo di raccomandati, lasciamo perdere che mi hanno già querelato, che è l'Assemblea regionale siciliana, che guadagna oltre 600.000 euro lordi all'anno, e ci sono funzionari della regione siciliana che guadagnano più del Presidente della Repubblica in Italia. Quei soldi lì vanno dati ai barboni, per fare le case di riposo per i barboni. Io non voglio i barboni per strada per quello, non li voglio per... non è che non li voglio perché mi danno fastidio, certo mi danno anche fastidio, perché non sono ipocrita come sei tu, Parenzo. A me vedere uno per strada che piscia mi dà fastidio, sì è vero, ma non lo voglio bruciare, lo voglio, voglio dare i soldi. Vuoi dare un cesso? Esatto, gli voglio a me, e a me dai fastidio tu, ad esempio. Vabbè, ma che io lo c'entra? Trovo, io lo trovo. Oh. Ma è meraviglioso. Invece i barboni vanno. Rosa, rosa, rosa, se va bene, rosa. Ecco, l'importante, volevo proprio dire questo, non è leggere il mio libro, a comprarlo. Poi potete anche buttarlo. Era la voce di Vittorio Feltri. Giornale, eccetera, eccetera, non c'è manco bisogno che ve lo presento, che ha scritto un libro in cui Parenzo sono citato, a pagina, voglio consigliare a tutti di leggere almeno solo a me, leggete se volete, ma non è importante, è importante sborsare i quattrini per comprarlo. Ma quanto costa, scusa? Al solito 18, tanto, sarà, tanto. Più del solito, tanto. Sì, solo... tanto. Aspetta, fammi vedere. Beh, dillo, guarda 18 il risvolto sarà. Di compagno. 19,50, 19,50. 19,50. Vabbè, fra poco faranno l'edizione economica, tutte queste robe qui. Però... fra poco, fra un po', insomma, quando è su, c'è di me, una pizza, una birra, a parte che dice che fra poco siamo finiti, dice questo Vittorio, no? Come? Sì, sì, ha detto questo, fra poco siamo, sì, finiti. Ma ha ragione, secondo me, questo è vero. Forse siamo già finiti, probabilmente. E non, certo, sappiamo. Nel futuro di tutti c'è una tomba, anche nel tuo, caro Parenzo. Beh, su questo non c'è, c'è ombra di dubbio. Siete morti, come dice Grillo. Siamo morti. Come dice Grillo? Come dice Grillo? Zombie che cammina. Sei qua a fare le marchette a Feltri, ma ti rendi, ma conto? Ma non sto facendo le marchette a Feltri. Vittorio Feltri. Ma poi anche se facessi una marchetta, uno che non a Feltri, sa neanche di cos'è la re. Ma noi non facciamo marchetta a nessuno, perché siamo teste pensanti libere come te, peraltro, sennò altrimenti non saresti. Ma di che parliamo? Al mio fianco, pur essendo un, come dire, uno che è un po' politicamente corretto, ma vabbè, ci sta pure. Cioè, capisci Vittorio che cosa dice Parenzo? Che Scilipoti e Razzi sono diversi da Gennaro Migliore, beh, da questi altri di Sel. Antropologicamente tu capisci diversi. Qual è la cosa? Cioè, ma questi, certo, passano da Sel al, cioè dall'opposizione al governo con Renzi, e però c'è il ragionamento intellettuale, no, cioè sono fini politici, hanno fatto un ragionamento politico. Invece Razzi e Scilipoti sono dei pezzi pezzi di merda, dei ladri, dei truffatori. Pezzi di merda, cioè, non l'ho detto. Vabbè, ma questo lo dico io nell'accezione comune così. Che ne pensi tu di questa vicenda? Furbastri. Io penso che Scilipotti sia una persona molto simpatica, che ha fatto quello che hanno fatto altri 100 parlamentari, e cioè saltabeccare da un partito all'altro. Quindi non mi sembra il caso di far diventare Scilipotti il simbolo del doppio giochismo italiano. Cioè, questi sono qua tanti di come Selle, lui, e sono rimasti anonimi e si godono gli stipendi. Sì. Questi di Selle, in fin dei conti, che passano con Renzi, non fanno la stessa cosa. No. Identica, uguale. Ma come è identica? Scusami, ma identica. Ma rimangono nel centro-sinistra. Ma quale centro-sinistra? Ma centro-sinistra, ce ne vanno in un partito perché conviene, mica perché hanno degli ideali. Ma vai, scherziamo, non pigliamoci in giro, lo sappiamo, conosciamo il mondo, conosciamo la gente, sappiamo che l'umanità fa schifo e purtroppo apparteniamo anche noi all'umanità. Sì, facciamo anche noi schifo, Parenzo, tu ti fai un po' schifo, sì. Beh, un pochino, Parenzo, sì. Sì, si fa un po' schifo. Personalmente... Ti fai un po' schifo. Faccio, ma personalmente no, però... Cioè, per esempio, questi qua, un altro argomento tocchiamo. Ma tu, direttore, ti fai schifo, non credo. Ma è un po' sì, ogni tanto si fa schifo pure. Sì. Anch'io ogni tanto ma mi faccio. Certo, sì, ma certo, ma figurati se non mi faccio un po' schifo, specialmente alla sera quando rientro a casa stanco. Mi faccio un po' schifo, ma è normale questo. Sì, ma... mi sembra del tutto superfluo anche ricordarlo. Cioè, invecchiare, per esempio, ti fa schifo invecchiare? Un po' sì. No, anzi, perché è l'unico modo per vivere a lungo è invecchiare. Non ne ho trovato un altro. Cioè, più uno invecchia, più vive a lungo. Dice, non c'è. No, Berlusconi... È come la storia dei compleanni. Ieri era il mio compleanno. Sì. Tutti dicono, tu non vuoi festeggiare il tuo compleanno? No, lo voglio festeggiare. Certo che lo festeggio. Perché è vero che se tu assommi tanti compleanni vai verso la morte, ma se non festeggi i compleanni vuol dire che sei già morto, quindi certo. Ma però quanti anni hai compiuto, direttore, ieri, scusami? Tanti, ne ho compiuti 71. Però è anche, ma quindi hai festeggiato, devi tutta sapere, la famiglia, per esempio, i bambini, devi tutto, una grande festa. E i bambini tutti grande insieme, i nipoti, tutti. Ma con i bambini, no? No, come? Normale. Conosco pochi bambini, per fortuna. Porto i regalini al nonno Vittorio. Ecco i regalini. Sì, fai lo spiritoso che tu non riuscirai neanche a diventare nonno. Ma speriamo di no, scusa. Ma che dici? Pensa avere un nonno come Parenzo, che disastro, che disgrazia. Perché un nonno di quelli appiccicosi che stanno sempre dietro lì attaccati come piattole. Mamma mia. Porterai pure a coso, Parenzo? Sì, porterai con la... Starai col passeggino pure col nipotino. Quindi Beh, io ti chiamerò alla radio. Perché Vittorio... No, scusami, perché devo portare... Devo portare in giro mio nipote. No, intanto, se dovessimo ancora fare la radio, tu avrai il catetere perché hai 10 anni più di me. Questo, vabbè, ma io sicuro. Però me ne dimostro 10 di meno. Tu avrai il catetere, però ne io di meno. Strapperò il catetere. No, non credo proprio. Scusa. Occhio, Parenzo, che ti troverai al più albergo Trivulzio. Però scusa, voglio dire una cosa, Parenzo. Allora, tu che porterai in giro i nipotini? Beh, certo. Come con i nonni li farò giocare. Beh, mi sembra normale, ma come tutti, ma non i nonni ti fanno del mondo, no? I bambini piccoli, quanto, perché non li sopporti, Vittorio? Ma io no, anzi. No, Vittorio. Non li sopporto, che sono fastidiosi, perché non hai niente da dire ai bambini. Insomma, i bambini tu li devi avere quando hai 30 anni, allora li sopporti. Io ne ho avuti 4. Beh, non ci stavi mai. Non mi hanno mai dato fastidio, della verità, anzi. Ma che adesso che ho 70 anni mi si mettano fra le balle dei bambini, questo lo trovo veramente scorretto. Sì, come scorretto? Ma ha ragione, ma basta con questa filosofia per Andiamo cui un nonno deve nonno stare Vittorio, ma perché questa cosa fissazione? Perché per esempio mia madre, no? Adesso vi racconto questa cosa. Mia madre, devo dire la verità, che se ne fotte totalmente dei nipoti. No, vedi, come me devo... Io devo conoscere tua madre, perché ma infatti voglio voglio presentarti a mia madre, ma non per qualche altra cosa, ma semplicemente perché Vittorio, sposate, cioè non è che posso presentare mia madre, ma mia madre se ne sbatte le balle dei nipoti, cioè poi affettuosa, quello che vogliamo, certo, però non vuole rotture di coglioni, cioè fa quello che vuole, cioè non è che sta presso ai nipoti, cioè dammi i nipoti per una settimana, ma non ci pensa ma nemmeno lontanamente. Ma una scocciatura terrificante. Ma no? Ti pare che uno dai i nipoti per una settimana diventa devo dire la verità, io un po' protesto, un po' dico mamma eccetera, però alla fine dentro le do ragione. Fa bene, uno vive la sua vita fino all'ultimo. Per esempio, vuole spendere tutti i suoi soldi, mia madre dice no, io non vi do, perché devo sacrificarmi? In diretta la radio? Sì, perché devo sacrificarmi? Ma io fossi in tua madre, ti aspetterei sotto la radio con un bastone nodoso. Io perché? Scusa, sto raccontando delle cose di vita normale, di vita reale. Ma cazzi tuoi, io fossi tua madre. Scusa, Sting ha detto, Sting, io invece voglio fare, da questo punto di vista, voglio fare un coming out su mia madre. E devo dire la verità, ho sempre rimproverato a mia madre, no, ma tu ci devi lasciare tutto, anzi, da adesso già devi fare la divisione per le poche case che abbiamo, cioè devi dividere tutto tra di noi, tra i fratelli, eccetera. Invece fa bene, ragazzi, fa bene, vuole spendere tutto per lei, vuole tenere tutto per lei fino alla fine, fa bene, deve vivere alla grande, fino a 100 anni, spendere tutto. Vittorio, tu che ne pensi di quello che io hai detto? Io sono appiattito sulle idee di tua madre. Capito? Cioè, Sting per esempio, ha ragione quando dice che Sting non vuole lasciare un penny ai figli e si devono fare un mazzo così da loro. Ha ragione al 100%. Non c'è il minimo dubbio. Ciascuno di noi deve farsi la propria vita in autonomia, senza dipendere da nessuno, specialmente dai genitori. È anche umiliante aspettare l'eredità dei genitori per poter spendere, campare in un certo modo. Lo trovo veramente disgustoso e umiliante per chi interpreta un simile pensiero. Facciamo un partito pro Sting in Italia. Partito sì, pro Sting è un grande. Togliamo per esempio tutte le cose che ci sono nei testamenti, le legittime, le cose che bisogna per forza, che passano automaticamente ai figli. Perché se un figlio ti sta sulle palle, cioè, riceve per forza qualcosa. No, se una parte della tua famiglia ti sta sulle palle, perché gli devi lasciare per forza qualcosa? Basta con questo. E questa è la nostra legge italiana, che evidentemente risente del familismo dominante nel nostro paese. Questo è veramente brutto. E bisognerebbe cambiare anche le leggi. Capisco magari una piccola parte che la devi lasciare ai figli, come aiutino, ma il resto, tant'è che viste tu a chi lascerai? Leggi, io spendo tutto fino all'ultima lira. Spendi tutto, spero di vendere anche quelle poche cose che ho per non lasciare niente ai figli, perché si devono arrangiare, devono fare la loro vita. Non voglio caricarli anche di responsabilità. Responsabilità. Voglio alleggerirli, non appesantirli. Comunque, pubblicità, poi torniamo ancora, perché dobbiamo affrontare, che bello non parlare di politica, guarda, che bello non parlare di Berlusconi, di Renzi, Van Rompuy, le bozze di accordo con l'Europa, la riforma del Senato, il Senato elettivo, il Senato chi è a favore o contro il Senato elettivo, il Senato, l'elezione indiretta del Senato, due coglioni così. Certo, nel futuro di tutti c'è una tomba, anche nel tuo, caro Parenza. E ancora a casa, Simo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola. Allora, ragazzi, sempre con Vittorio Feltri ai nostri microfoni qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Molti ascoltatori, però quello che ho sentito nei giorni scorsi sulle trasmissioni in cui i bambini cantano da parte di Vittorio Feltri è geniale. Vittorio, quando vedi, dimmi che cosa provi quando vedi un bambino cantare in una trasmissione, no? Lo Zecchino d'Oro, Sì, è terribile. Ma lo Zecchino d'Oro era una cosa dolce, sentivi dei bimbetti che canticchiavano le loro canzoncine, insomma, erano sopportabili. Adesso questi nanerottoli arrivano lì davanti al microfono e cantano come quelli di 28 anni, con una voce pazzesca, e imitano i grandi. In sostanza sono dei mostriciattoli che disgustano. Io preferirei non vederli. E i genitori come li consideri? Peggio dei pargoli, che se non altro così teoricamente sono innocenti, ma i genitori invece sono complici. Andrebbero cancellate queste trasmissioni? Sì, assolutamente. Credo che siano diseducative, vietate. Naturalmente non avendo una mentalità censoria, faccio fatica a dire queste cose, però insomma sono trasmissioni che io evito accuratamente. Cioè la signora Clerici è incazzata, la signora Clerici. Mi dispiace, perché a me è simpatica la Clerici, già. Con i cuochi, bella donna, pare che bella donna, ma imperversa con i cuochi, tra Papa Francesco e Renzi, poi ci abbiamo i cuochi, poi ci abbiamo pure i mini cantanti, basta, per favore, cerchiamo di diversificare. Signora Clerici, Parenzo, a te piacciono le canzoni? Non mi metto la sera tornando a casa dopo la Zanzara a guardare i bambini che cantano. Mia figlia che ogni tanto però guarda. Un'altra cosa. Però su una cosa ha ragione Felti, cioè se questi programmi servono a solleticare l'ego dei genitori che dicono guarda, ma quello bravo, non c'è dubbio, allora chiaramente è perversione, siamo nell'ambito della perversione. Dai. E invece se si tratta di far esprimere un talento al proprio pargolo, vabbè, questo ben venga, io sono liberale, per cui talento non di che? Che talento a quell'età? Perché c'è un talento, perché Mozart a che età ha imparato a suonare e a toccare? Capisci che paragone? Cameriere. Mozart. Ma no, ma voglio dire, Mozart iniziò la sua carriera da giovanissimo, no? Il così fan tutto. Vabbè, però Vittorio Feltri conosce talmente bene il Corriere della Sera che oggi l'incazzatura dei giornalisti, il fatto che i giornalisti del Corriere della Sera, attraverso il loro organo di sindacato, protestino per la pubblicazione di una pagina a pagamento sul loro giornale in favore di Marcello Dell'Utri, cioè di solidarietà da parte di conoscenti verso Marcello Dell'Utri, la trovo una cosa squallida. Cioè non capisco qual è il problema. Qual è il problema? Io ho trovato una pagina a pagamento, è vero che si può rifiutare sempre, però non capisco perché si debba discriminare Dell'Utri e gli amici suoi che intendono dargli una dimostrazione di solidarietà. Insomma, io non sono d'accordo, ognuno fa quello che vuole e oltretutto se paghi non vedo perché ti debba essere negato il diritto di esprimerti. Sì, no, ma come consideri il fatto che ho capito, la questione è diversa, che vuol dire? Cioè... No, è diversa, se io ricordo una pubblicità su Il Giornale o su Libro, non mi pare, che mi faceva anche divertire moltissimo, per carità, di un tizio, qualcuno gli vedeva cimeli nazisti. Mi ricordo questo, le pagine su Libero erano i cimeli nazisti. Vabbè, ma che c'entra? Allora, io fossi direttore di un giornale, non accetterei la pubblicità. Ma se quello ti dà un sacco di soldi, c'è scritto nazisti. Informazione pubblicitaria, qual è il problema? Però no, tanto appunto, li vende su internet, tanto poi, no, poi appunto, li vende su internet. Però capisco che uno possa dire io ospito questa pubblicità o quest'altra, se un giornale l'Avvenire, no? Facciamo per intenderci. L'Avvenire mai accetterà, potrebbe accettare vabbè, la pubblicità dei preservativi, giusto? Perché l'Avvenire è un giornale, scusa. È un bollettino, diciamo, della CEI, siamo di fronte a fenomeni diversi, editoriali diversi, certo. Ma un giornale libero perché non può ospitare anche la pubblicità dei no, ma per carità, chi se ne frega? Ma perché siamo schiavi di queste cose? Sì, ma basta per favore con queste stupidaggini, ma cerchiamo di essere aperti. Si può fare la pubblicità di qualunque cosa, però oggi questa cosa di Dell'Utri ha provocato un casino, perché un sacco di gente dice non si può vendere una pagina di pubblicità in favore di uno condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, dicono. Esterno, peraltro, che poi non si capisce cosa vuol dire. No, ma io su questo sono d'accordo con te. Ma al di là del fatto in questione, dice come si potrà rifiutare poi, che ne so, qualcuno che vuole pagare una pubblicità in favore di Totò Riina? Per dire, no? Però Totò Riina non era molto esterno, mi sembra di ricordare. No, quello pure è vero. Vabbè, ragazzi. No, però il paradosso ci sta, cioè la provocazione ci sta. Però, possiamo fare anche gli amici di quest'altro. Non abbiamo parlato di Balotelli, mi sembra che su Balotelli si sia già ha ragione Feltri, secondo me invece. Cioè sul fatto che è stato ingiustamente accusato di essere la causa di tutte le rovine, ma questo l'abbiamo detto. Questo, ma la cosa che ha detto sui negri è una cazzata, Vittorio, no? La cosa che ha detto sui negri, ma quella è una cosa addirittura ridicola, insomma. Però poveraccio, insomma, lasciamogli dire tutte le cacchiate che vuole, esasperato, se ne frega. Io penso che Balotelli sia un italianuccio qualsiasi, quindi... con tutti i difetti dell'italianuccio qualsiasi, sì, non c'è dubbio. Ma per l'amor di Dio, ma dare la colpa a lui del disastro della nazionale mi sembra veramente un'operazione di bassissimo livello. Io non l'avrei mai fatto, la colpa è di tutti. D'altronde la botte del calcio italiano offre questo vino, è un vino pessimo, teniamocelo, è colpa di tutti. Non solo di Balotelli. Io aggiungo una cosa in più: all'interno di quel vino pessimo, quello, come dire, distillato, quello che porta Balotelli non è manco il peggiore. Cioè, ma diciamo, assolutamente no. Così come ha torto Buffon quando se la prende con i giovani, quando Verratti è stato il migliore in campo. Esatto. Lui, e lui invece qualche difettuccio sulle uscite. L'abbiamo visto anche contro il Costa Rica. Certo. Ciao Vittorio, a presto. Ciao. Un abbraccio. Ciao. La zanzara è quell'odioso insetto. Pronto? Che non mi fa e il conduttore? Sì, ieri c'è stato un bis però, ieri c'è stato un bis di un altro ascoltatore, Mi ha beccato. Gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti zanzara mi sono messo il piede, ma lei gira sempre. Pronto? Sì. Buonasera, sono Roberto. Sì. Parlo, chi è? Cruciani? Sono Cruciani, sì, ciao. Con chi parla? Telefono, ciao, ciao, chi parla. Sì, sì, il telefono da Milano. Sì, volevo... ma con chi parla? Con chi deve parlare? Con suo padre, con suo fratello? Poste. Ma con chi parla? Con Pizzi e Carolo sotto casa? Poste, con... telegrafi, ma con chi deve parlare? È chiaro che sono io, no? Chi deve essere? La finiamo qui. No, veramente la finiamo. No, ma noi diciamo la finiamo qui, non lei. Ma la finiamo qui. Lo diciamo noi, la finiamo qui. Siamo noi a dirlo, cazzo. Telefono in faccia, è finita, Cruciani, punto. Vabbè, dimmi, punto, dai. Chiuso. Forza, forza. La zanzara è l'imprendibile insetto. Pronto? Roberto? Sì, guardi, lasci perdere, perché quando uno si comporta così, specialmente quando è in diretta, se non sa chi c'è davanti... Dimmi, dimmi, che mi volevi dire? No, la finite così. Ma che mi volevi dire prima? Che mi volevi... Ma che no, mi volevi guarda, dire? Non te lo dico nemmeno privato. Ma come no? Dimostrato quello che sei. Ma punto, cosa? Chiudo. Ma cosa? Ma se non mi dicevi chiudo, quello... Finito. Ma se siamo non mi... noi che chiudiamo. Ma siamo... A parte che siamo noi che chiudiamo, ma perché non mi volevi dire? Cioè, sei tu che non parlavi. Allora... Giuseppe da Bari, amico mio, Giuseppe da Bari, stiamo a pettinare bambole qua. Giuseppe da Bari, Giuseppe da Bari. Hai detto delle cose proprio brutte oggi. No, sai? Ho detto delle cose fondamentali oggi. È stata una svolta, brutte. Guarda, Giuseppe da Bari. Io fossi nella tua famiglia, no, ma non ma perché? Che ho detto? Merito. Scusa, non ho capito. No, ho è denigrare, è proprio brutto. Ma chi? Brutto. Denigrare chi? Proprio brutto, basso, chi? Brutto, brutto, brutto. Fammi brutto, Giuseppe da Bari. Mi dispiace per la famiglia perché hai tirato. Ma io ho elogiato mia madre, ma stai scherzando? Ho elogiato mia madre. No, non per quello, no, non per quello. Sui nipoti. Delle cose bruttissime. No, nipotini ha detto fette, mica ho detto io. Delle cose Giuseppe molto da Bari. Brutte. Beh, certo, tu sarai costretto a portare la carrozzina a tuo nipote al parco. Sì, ma io spero sì, di vuoi fare sta fine qua, fai sta fine qua. Ma che fine è? Scusami. Giuseppe da Bari. Inumano, senza anima sei, proprio un uomo senza anima. Vai Giuseppe, vai. Senza affetti, posso senza parlare? Anima. Buonasera sì. Giuseppe. Dimmi, dimmi caro. Giuseppe. Dai. Io sono qua sfasciando in pensione dei carabinieri che ti indirizzava su come sfasciare i barconi sulle coste libiche senza che brava persona ricordi. Questa grazie maresciallo in pensione dei carabinieri beh, che ti indirizzava posto. Su però, come sfasciare però... i barconi povero che brava persona che è. Marco è bravissimo come che brava persona i barconi brava. Senza reti sono destinati alla migrazione caro signor chi è che sta parlando Parenzo. Ma chi è che parla chi parlo io parlo da quattro anni e sono Parenzo e lei anche se è un ex carabiniere me ne fotto perché uno che telefona e dice sono quello che la indirizzava su come sfasciare i barconi. Se lei mi consente, caro ex maresciallo dei carabinieri, io me ne fotto, capito? Oh. Va bene, ma io sto parlando con Giuseppe Cruciani. No, ma io sono qua. Mi dispiace, sono qua anch'io. Che fa? Chi è la che lo vuole ammazzare? Che lo vuole ammazzare? Che lo vuole ammazzare? No. Pronto? Sì, ma chi pronto? C'è dietro di lei? Chi è che sta parlando dietro di lei? Sua nipote, chi è? Qualche migrante sarà. Pronto? No, non è nessuno, pronto? Sua moglie, chi c'è dietro? No, non c'è nessuno. Ma sentiamo delle voci, su. No. Senti, ma Giuseppe, no? un esempio di zingari sinti. Io ho preso un bambino che aveva rubato un mini Rolex a una signora ricca. Mi segui? Lo porto in caserma. L'ho denudo. Non trovo l'orologio. Come sai dove aveva una... vabbè, lo devo spogliare. Gli devo trovare sto cazzo di orologio addosso a questo. È quello che si grazia in testa per far vedere che è Pidotti, così lo cacciava, lo mandavamo via. Mi segui? Sì, come no? Mi segui cosa? Bravo. Senti, bravo alla che fine, bravo. Alla fine dove stava l'orologio? Nel fondellino delle mutandine, nel fondellino delle mutandine. Arriva il papà che era a 20 chilometri nelle grandi roulotte da 100.000 euro, quindi non dormono per strada, due per paretto. E sa che fa questo signore? Entra in caserma, si mette su attenti, toc, e mi fa il saluto romano. E dunque? Dunque, per e poi la moglie che stava appresso, la moglie, una signora di due metri, sì. Nel prendere il bambino in braccio ho sentito un rumoretto strano. Sa che aveva quelli? Aveva decine di cacciaviti nelle tre sottane che aveva sotto, decine che ho dovuto sequestrare. Dunque, per lei i rom cosa sono? Tutti ladri? Sì, no, tutti, a seconda le etnie, le tribù, a seconda i sinti sono, prima facevano gli stagnini affollavano i coltelli, sì. E poi si sono specializzati in furti in casa, suonano, se la signora che c'ha due fiammiferi per piacere, se non apre nessuno, tac, aprono con cacciavi dentro e rubano e fanno. Ma questa è vita vissuta, Parenzo. È la realtà. Un ex maresciallo dei carabinieri che ci racconta queste cose, che sono cose vere. Che sono cose vere, vere. Non è che sono cose inventate. Sono cose che. Cosa dà Manfort? Diglielo. Sono cose vere. Signor Giuseppe Dabari dice che in sostanza i barconi vanno colpiti, ma non con la gente sopra, vanno colpiti quando partono. No, e io che sto dicendo? Quando sono senza reti. Senza reti, quindi che devono portare gli emigranti in Italia. Sì, ma lei quando vede un rom per strada, Giuseppe, pensa subito al fatto che può essere un ladro, no, diciamo. Sì. Può. No, le donne in coppia sì. Le donne con in coppia, sei buona questa, eh? Le donne in coppia con i vestiti? Cosa pazzesca. Con i vestiti, con le sottogonne, troppo sottogonne. Sai, quelle sono tutti ladri, tutti ladri. Sì, sì. Per forza. Vabbè, ma è la prova, è l'esperienza di vita vissuta, Parenzo. Basta con questa ipocrisia. Grazie, Giuseppe, ti abbraccio fortissimo, caro amico. Ti abbraccio fortissimo. Caro amico, ciao. Uno che ciao. Telefona e dice... Vabbè. Beh. Grande amico del mondo gay. Grande amico del mondo gay. Luca Giurato, buonasera. Grande amico del mondo gay, grande amico vostro e ammiratore, e un saluto al pubblico e a voi diavoli scatenati. Grazie Luca Giurato, grandissimo Luca Giurato, che ha fatto, grazie, come dire, del suo linguaggio, del suo vestire anche un po' scorretto, certo, una cifra. Sì. Come in parte facciamo anche noi, Parenzo, diciamo la verità. Cioè, no, io ricordo... Non siete più bravi, non è per dire adesso cose scontate, però io vi seguo e mi divertite molto. Se eccomi io qua, adoro Luca Giurato, perché ricordo di Luca Giurato una cosa straordinaria. Dimmela. Non le gaffe, perché le chiamavano gaffe sbagliando, non erano gaffe, erano pezzi di televisione straordinari. Quando tu stavi facendo una rassegna stampa al mattino, lì a 1 mattina, sì, e c'era il caso di Giuliani. No? Di Giuliani. Ah, come no, certo. Beh, devo dire un pochino, devo dire grande, quella cosa lì un pochino mi è scocciata. Ero proprio rimbambito. No, stupendo. Perché si era appena svegliato dal mattino. Racconta. Era tutto assonnato. E allora prende i giornali e dice e legge, no? I no global per Giuliani. E il commento di Giuliani, legge il titolo, no? Sì. E il commento di Giuliani, legge il titolo e poi dice: sì. Il sindaco di New York è molto amato dai No Global. Stupendo. Io me lo ricordo. Volevo aggiungere. E ti ho amato da lì. Da lì sei ti ho amato per sempre. No, pensa per la fatta apposta, ma gag così. Mi chiamavano Hollywood e non tornavo più. Se e invece proprio non l'ho fatta apposta manco per il cavolo. Manco molto per amato il sindaco. Vabbè, comunque sì, ragazzi, dire a Giuliani Rudy Giuliani invece di Giuliani è eccezionale. Stupendo. Luca Giurato è in collegamento da Villa Borghese, tra l'altro, sì, delle presunte sempre. Sai tutto, che c'hai un drone qui sopra di me? No, noi qui controlliamo, sai che i tassisti sono le nostre ombre. I tassisti. Guarda, cazzi male, perché i tassisti sono tutti amici miei. Appunto. Mi coprono sempre. Senti, che stai a fare, Villa Borghese? Che c'è il coso? Io ho appena finito. Impermeabile. Stai con l'impermeabile. È un grande. Ascolta, io ho appena finito la mia marcetta quotidiana. Sì. 40 minuti di camminata veloce. Si vede che fa più cazzo. E quindi sono in una forma strepitosa, pronto a voi per qualsiasi cosa. Scusami, sì, Luca, hai già detto questo, però adesso non è che devi ripetere. Hai ragione. Dai ragione a tutti. Io non ho mai visto che si arrabbia con qualcuno. No, come no? Sarà arrabbiato qualche volta? No, mai. In Rai, mai. Come mai. No? Cioè, tutti gli dicevano le peggio cose. Gli dicevano: hai ragione, amico mio, hai perfettamente ragione. È uno che si è fatto sempre scivolare tutto addosso. No, ma è un Luca genio. Diciamo, è un genio. Allora, io, se rinasco, voglio essere Luca Giurato. No, io però voglio dire una cosa. Luca Giurato è a Villa Borghese in questo momento a fare la passeggiatina alle 20:28, ma avrà iniziato sicuramente alle 5 di pomeriggio. Perché ormai non c'ha più un cazzo da fare, ma io lo invidio. Cioè, ma è così, vero Luca? Senti, ma mi sopravvaluti, 3 ore abbondanti di marcia. Vabbè, andrò all'Olimpiadi, prendo atto di quello che avete appena detto e mi alleno per le prossime, anzi no, per i prossimi campionati di calcio, al posto di tutti gli 11 fessi che sono andati laggiù in Brasile. Mi impegno. Senti, ma hanno presentato i palinsesti alla Rai, ma t'hanno proprio, non c'è più niente da fare per te, non ti vogliono più. Ma no, mi vogliono bene, però io non sono più un dipendente, sono un collaboratore opinionista in varie trasmissioni. Io voglio bene alla RAI, loro mi vogliono bene, però non mi possono affidare una trasmissione perché non dipendo più da loro. Però mi trovo bene così, a fare l'opinionista, a meno fatica e più attenzione alle cose. Tanto che i soldi ormai l'hai fatti, diciamo, pure le sparare. Quello, guarda, non ti preoccupare, proprio una cosa enorme, capitali enormi, hai azzeccato in pieno, bravo. Un attimo solo, abbiamo un'interruzione, poi con Luca Giurato da Villa Borghese, dove ha appena finito di fare la marcetta quotidiana, altri ospiti, ricchi premi, come si dice Parenzo, e Cotillon. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao. Grande amico del mondo gay, grande amico vostro e ammiratore, e un saluto al pubblico e a voi diavoli scatenati, scatenati. Provincia di Chieti, poi torniamo con Giurato da Villa Borghese. Riccardo, eccomi. Dimmi, eccomi. Caro, dimmi. Buonasera, e volevo parlare, purtroppo non l'ho trovato, quel grande artista di Oliviero Toscani. Volevo rispondergli. Sì. Lui ha parlato di subumani, riferendosi ai padovani che hanno votato per il sindaco Bitonci. Sì. Far presente che il termine subumani mi ricorda come Adolf Hitler definiva ebrei, tedeschi, slavi. Cioè, dunque, secondo te Toscani è una sorta di piccolo Hitler da questo punto di vista? No, sì, cioè tratta i leghisti, esatto, tratta i leghisti come Hitler trattava gli ebrei. Esatto. E quello che mi meraviglia di più è che Parenzo gli dà ragione. Ma Parenzo, quello parla come io Hitler, capisco mai la provocazione di Oliviero Toscani. In questo caso è la provocazione. Sì, certo che no, ma lui cosa di che dice? State calmi che vi scateno, era Rottweiler che ha chiamato prima. Vergognati. Allora, lui che dice? Dice che alcuni comportamenti della Lega sono talmente antiumani, perché c'è qualcosa contro l'umanità, certo, perché essere contro i barboni è qualcosa di antiumano, proprio prendersela con gli ultimi della società è una cosa antiumana, questo intende Toscani. Ha ragione Riccardo. Toscani è per la vita, è tutt'altro, perché Oliviero Toscani in quella provocazione segnalava la inumanità, la disumanità di alcuni leghisti. La vita degli ariani e non quella degli altri. Bravo Riccardo. Ma la coerenza ce la vuole lei, basta che lei dovrebbe accendere il cervello e capire il ragionamento che ha fatto Toscani. Cioè Toscani dice: essere contro gli ultimi, i rom, i barboni, quelli che chiedono la carità, volerli spazzare via dalle strade, eliminarli dalle strade, non è umano. In questo allora è disumano, ma è disumano, cosa dire subumano, cioè, perché dice che è una vera subumano. Arrivederci, grazie. No, ma ha ragione Riccardo. Buonanotte. Luca? Come? Allora, ma tu sei a favore del matrimonio gay? Ma sicuramente sì. Sicuramente, perché no? E poi sono a favore dei gay, pur non essendo gay. Sicuramente avrai letto la mia lettera a Luxuria, novella 2000. E come no? E perché no? Certamente sono a favore e difendo tutte le minoranze. Ma anche l'adozione? Ma ecco, posso essere serio? Tocchi un punto veramente delicato. Perché? Quello dell'adozione è problematico perché coinvolgere i minori e in particolare i bambini in una cosa così mi crea, sono molto serio in questo momento, delle forti perplessità. Stiamo andando verso questo. Hai visto, c'è quel deputato, quel senatore del Partito Democratico che addirittura è andato in America a far nascere un bambino prendendo una donna, facendola, no? Inseminandola, diciamo. Sì, e sarei poi l'hanno prudente, riportato. Sarei prudente quando si tratta di bambini e di minori. Comunque favorevolissimo ai matrimoni, quello assolutamente. Senti, ma tu sei stato corteggiato dai gay anche? mi fai una domanda che mi spinge a darti delle risposte molto osè, e diciamo pure di sì. Diciamo pure di sì, però con molto garbo e con molta riconoscenza verso un avvenimento così fondamentale e importante come quello di essere corteggiato dai gay, ho detto no, grazie, mandami tua sorella, che è meglio. Ma sì, certo, è un grande eterosessuale, Luca, cioè, gli è sempre piaciuta, insomma, no, diciamo la verità. Diciamola. Però io voglio dire una cosa, per esempio, c'è un altro tema che mi... tu sei stato sempre un irregolare, no? È un irregolare anche all'interno della RAI, eccetera. È vero. Alla RAI non c'è, perché ci vorrebbe essere qualche coming out in più, insomma, anche la RAI sarà pieno di froci, no? Io questo delle attitudini sessuali dei miei amici e delle mie amiche della RAI devo dire so poco, perché fatti privati sono fatti privati. A me mi lasciano in difesa, però certamente perché poi non dirlo, ecco, se ci sono, perché questo non capisco. Comunque, sai che ti dico, mi hai suggerito un'idea per una trasmissione dell'anno prossimo, alla caccia di quelli che potrebbero essere gay nell'azienda RAI, che io adoro. È un bel tema tosto, me darò da fare e chiederò anche il vostro aiuto. E intanto, scusa, Renzi ha tagliato un po' di soldini alla RAI, ancora no, però che ti devo dire, io difendo l'azienda, però a quanto pare c'è poco da fare. Certo, 150 milioni a un'azienda che, come tutte le aziende di informazione e di spettacolo, ha i suoi problemi, è una botta molto dura. Senti, quindi, ma Vespa guadagna troppo secondo te, o è giusto che guadagni così tanto? Senti, ti posso dire, Bruno, io l'adoro perché ero suo vice direttore al TG1 e lui che mi ha lanciato in televisione, eccetera. Ma Bruno è un grandissimo paraculo. Bruno è un se riesce a fare quei contratti, ma complimenti a Bruno, io mi faccio tanto di appello. Potessi farlo io, non sarei capace. Però per cui è un po' esagerato. E lo ammiro, sono un bel pacco dei quadrini, un bel pacco. Ma è un po' esagerato, no? Anche di questi tempi. Voglio dire, sono tanti soldi. Cioè, il prodotto vale quella roba lì, oppure si può anche fare. Guarda, io con Bruno sono schietto e diretto, spero che ci ascolti. Sì. Io la parte politica delle sue trasmissioni non l'ascolto più, perché i politici, tranne poche eccezioni, mi hanno rotto le palle. La parte di cronaca, la parte di attualità mi piace moltissimo, è molto bravo. Però, vuol dire, si può ancora pagare nel servizio pubblico, anche se lui è un collaboratore ormai, si possono pagare quelle cifre, secondo te, oppure è esagerato? Senti, se è un discorso vecchio come il cucco. Uno porta pubblicità in abbondanza, perché no? Io faccio un esempio, io porto pubblicità 10, se mi piaghi 6 è giusto che sia così. Del resto c'è una concorrenza agguerrita, non lo devo dire a voi. Ma Floris alla fine che fa, Floris? Non lo so, secondo me facendo ascolto sta facendo un po' a mulina, e portando pubblicità fa bene a tener duro. Questa è la mia idea, io sono per la libera concorrenza, e se uno può farsi valere che lo faccia, se no si pianza a coccia e buonanotte. Scusami Luca, ma tu te la sei mai fatta una canna? No, mai. Mi è mai piaciuta quella roba lì, mai. Droga non leggera, fumo, non bevo e non mi faccio canne. Niente. Su altre cose soprassediamo. Su altre cose, cioè nel sesso sei un po' ambizioso, diciamo la verità. Sei un po'. Un pochettino, però non si parla mai. No, mai. Perché, sai come diceva il mio ex editore quando era alla stampa, l'avvocato Agnelli, gli uomini si dividono in due categorie, quelli che parlano di donne e quelli che parlano con le donne. Quelli che parlano tanto di donne sono dei fresconi, quelli invece che parlano con le donne, tutta la mia stima. Ti abbraccio, a presto, ciao. Veramente caro, ti richiamiamo ogni tanto, ciao Luca, ciao. Allora, dove andiamo? Nicoletta, provincia di Bologna, via. Giurato. Nicoletta, vai. Buonasera. Io volevo dire che mi sconvolge tanto che la Franzoni vada ai domiciliari. Sinceramente sono contenta che non la debba più mantenere io e tutti gli altri cittadini. In carcere, dice lei. Dire, ma ragazzi, però bisogna decidere. Bisogna mettersi d'accordo. Bisogna mettersi d'accordo. Se uno vuole la gente in carcere, tocca pagare la gente in carcere. Se uno vuole mantenere la gente in carcere, perché se uno dice voglio la sicurezza, costruire più carcere, però non è che si può lamentare, diamo troppi soldi ai carcerati. Mangiano pure. Mangiano in carcere. Questo c'è ragione. Si ritira nel suo paesino di montagna, quattro case. Su questo c'ha ragione Parenzo, eh. Cioè, intanto non va nel paese di montagna del... Beh, non va a Cogne sta... intanto no, paese di montagna dove abita Monte Acuto, dove sta la famiglia Franzoni. Ah, ecco, sì, non a Cogne. Va lì, non a Cogne, sono montagne, sono gli Appennini, comunque sì, non è pianura. Insomma, lì sul Cocuzzo, il nostro paesino, è guardata a vista dalla famiglia, contenti loro di prendersela in casa. Sono convinti che... È un dramma, rimane comunque sempre la madre degli altri due bambini. Cioè, è un dramma pazzesco, contenti loro, ma è chiaro che sì, ma non sono contenti. Se ne assumono loro il rischio, la danno loro. Sì, ma mettiamoci sono d'accordo però allora, perché adesso chiamerà un piscuano, un altro ciarlatano, un altro di questi qua che telefona e dirà ecco, è fuori che scandalo, gli dobbiamo pagare da mangiare i detenuti. Sì, se uno è in carcere gli devi pagare non da mangiare. Certo. Che scandalo! Se torna nel suo paesello, là è guardata vista come in carcere dalla famiglia. Ma non si può dire che va bene. Vabbè, grazie Nicoletta, grazie. Giovanni da Roma, Giovanni da Roma. Eccolo, presente. L'intervento che volevo fare è un po' in ritardo, ma comunque va bene. Tanto mi intrometto nell'ultima discussione. Manteniamo pure lì quell'elemento che ci avete... Quindi figuriamoci la Franzoni o i carcerati, meglio i carcerati. L'intervento che volevo fare però è un altro. Il fotografo che si preoccupa tanto e si permette di dire che il Cristo è pornografico. Ma quella è una provocazione, su dai. No, però il solito discorso, ci siamo rotti i coglioni di sta gente che fa le provocazioni e fa l'intellettuale, pure il fotografo adesso, e poi lui fa la foto della ragazza anorettica e lui è un artista. Vabbè, che c'entra la foto della ragazza? No, non è sì che è una cosa. Lei si è sentito colpito da questa vicenda. No, è una campagna sociale. No, ma è diverso, però si è sentito colpito. Ancora, la campagna sociale. Lei ancora. Si è una campagna sociale. Oddio. Per denunciare la malessia. La campagna sociale che pagano i compagni. Che pagano i compagni con i soldi nostri. Che c'entrano ma i compagni? Compagni? Ma perché deve bere così tanto? No, perché? No, quali compagni? Parenzo, dai, su. Parenzo, non dica stupidaggini. Parenzo, non si permetta assolutamente ad operare termini offensivi. Ma bere un bicchiere di vino non è male. Ma io non bevo per niente, bevo la sera un bicchiere a cena, certo. La invito ad essere educato nei miei confronti. Io sono educatissimo, ma se lei dice una sciocchezza, madornale come quella che ha detto, perché i compagni non hanno pagato nessuna campagna di Toscani. Ne dice così tante lei ha detto una falsità, siccome non lei ha... si può permettere. Ma io posso, lei ha detto una falsità, perché i compagni, come li chiama lei, non hanno pagato nessuna. Lo dimostri. Dimostri che i compagni hanno pagato la campagna di Toscani. Dimostri questa cosa, forza. L'unico falso. Dimostri quel che ha detto, forza. Ma dimostri. Ma lei si è sentito. Dimostri quello che ha detto. Giovanni, lei si è sentito offeso dalla frase di Toscani sul Cristo pornografico? Io mi sono sentito offeso. Va bene, benissimo, questo è legittimo che lei si è sentito offeso. Ha capito qual è il discorso? No, ma ho capito perfettamente. Allora, ma come si permette lui di offendere la religione cattolica? Ma chi è? Maurizio da Roma, grazie Giovanni. Maurizio, veloci, gli ascoltatori voglio fare tutti questa sera. Maurizio. Pronto, Cruciani Giuseppe? Dimmi, sì, Cruciani Giuseppe. Salve, sì. Buonasera. Buonasera. All'amico tuo che tiene sempre dalla parte dei rom. Io ero ragazzetto, sì. Facevo il magazziniere in una azienda di trasformazione di alimentari, diciamo. Stavo confezionando degli spicchi di auricchio. Cioè il formaggio auricchio. Il provolone, certo, formaggio, e allora? Sì. Erano dei triangoloni lunghi 4-5 kg. Sono entrate tre rom con delle palandrane, con delle gomme tutte ariose, mi hanno fottuto due pezzi di auricchio e fuori c'era no, ho capito, per carità, certo, lei dice rubano pure i pezzi di auricchio, dice lei, ecco. Arrivano a rubare pure i pezzi di formaggio, questo vuole dire lei, sì. Ma secondo lei perché? Perché nella loro mente sanno fare quello, e quello fanno, lo fanno molto bene, brave. Maurizio, ciao, Ruggero da Latina, Ruggero. Eccomi qua. Vai. Io adesso un po' mi dispiace dopo l'attacco che ha subito il Baggio Parenzo dal penultimo ascoltatore, inserire sembra poi sparare sulla Croce Rossa. Ma il Baggio Parenzo è un caso umano che è proprio unico, che lui come i suoi amici di Radio Popolare sono sempre pronti con un pinino da porcello sul carro dei vincitori. Allora, ma io quelli di Radio Popolare non li conosco, e mi dispiace anche non conoscerli, ma non li conosco. Radio Popolare con un, ma che c'entra Radio Popolare? Non c'entra una mazza. Ma non c'entra una mazza Radio Popolare! Ruggero, ci sentiamo domani, vai, 18:30, gli altri li recuperiamo, Ciao. Sì, ma certo, ma figurati se non mi faccio un po' schifo, specialmente alla sera quando rientro a casa stanco, mi faccio un po' schifo, ma è normale questo, no? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Telefonare meno la Zanzara e farsi qualche scopata in più. Radio 24. La passione si sente.